informa che riunendosi con ben 32 stati di corona. Filato! Preso in campo di battaglia! Per vendicare Luciano! Mi ha mangiato! Body.